Ricomincia l'avventura, ecco a gran velocità. Corrono il futuro è là. Torno ancora sui miei passi giù in città. Ombre sopra i grattacieli, guarda là. Digimon, tra la gente e il traffico che va. Torna e vive la speranza. Azionate i Digivice, Harry, Rick e Takato. Uno solo è il gesto. Digievolve Gilmo la realtà. Tierremo trasformerà e si materializza Renamon. Digitemers, Digimon, Digilotta l'entità. La Terra siamo noi, stiamo già lottando tanto. Digitemers, Digimon, Digilotta l'entità. Io vincerò.